Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Corrado Selmi uscì dalla Camera dei Deputati livido, stravolto, con un tremor convulso per tutto il corpo. Appena sulla piazza, nel sole, fece uno sforzo disperato su se stesso per riaversi, per riafferrare in sé e rimettere sotto il suo dominio la vita che gli sfuggiva in un tremendo scompiglio. Ma restò, avvertendo che non aveva neanche la forza di trarre il respiro, quasi avesse il petto e il ventre squarciati. Un sentimento nuovo gli sorse allora improvviso. La paura. Non degli altri, ma di sé. Orora gli altri li aveva sfidati e assaliti nell'aula del Parlamento con estrema violenza. Ancora ne tremava tutto. Nessuno là aveva osato fiatare. Ma quel silenzio, quel silenzio era stato per lui peggiore di ogni invettiva, di ogni tumultuoso insorgere di tutta l'assemblea. Quel silenzio lo aveva ucciso. Aveva ancora negli orecchi il suono dei suoi passi nell'uscire dall'aula. Nel silenzio formidabile, quei passi avevano suonato come colpi di martello su una cassa da morto. Sentiva una grande arsura e le gambe come se gli si fossero stroncate sotto. Schiacciato dall'accusa, aveva voluto rivalersene con tutto l'impeto delle energie vitali ancora possenti in lui. Ma appena aveva finito di parlare, quel silenzio. Nessun dubbio che l'assemblea, subito dopo la sua uscita dall'aula, avesse votato l'autorizzazione a procedere contro di lui. Eppure, tutti lo sapevano povero. Sapevano che il denaro preso dalle banche non poteva essere significato a lui come a tanti altri. Dall'avere affrontato la morte, quando più bella suol essere per tutti la vita, non gli veniva il diritto di vivere? Nella losca complicazione di tante oblique vicende, la semplicità di questo diritto appariva quasi ingenua e tale che tutti, ridendo, dovessero negarglielo, quel diritto. Morto, non solo, ma anche svergognato, lo volevano. Doveva morire allora e sarebbe stato un eroe per tutti questi vivi d'oggi che gli rinfacciavano come un delitto l'aver vissuto. Ma non tanto l'accusa in fondo gli sembrava ingiusta, quanto ingiusti gli accusatori, e più che ingiusti, ingrati e vili. Vili perché, dopo aver per tanti anni compreso che egli aveva pure questo diritto di vivere, si levavano ora a dimostrargliene con scherno l'ingenuità. Dopo aver per tanti anni compreso il suo bisogno, si levavano ora a rinfacciarglielo come un monto. Ne si sarebbero fermati qui. Ora arriva il processo, la condanna, il carcere. Corrado Selmi rise e avvertì ancora lo sforzo che gli costava lo scomporre la truce espressione del volto in quel riso orribile. Il sorriso schietto e lieve che aveva accompagnato sempre tutti gli atti della sua vita, anche i più gravi e i più rischiosi, s'era tramutato in quella triste smorfia, dura e amara. Ebbe di nuovo paura di sé, paura di assumere coscienza precisa di un certo che oscuro e orrendo che gli si era cacciato all'improvviso nel fondo dell'essere e glielo scompaginava, dandogli quell'impressione d'esser come squarciato dentro irrimediabilmente. E per ricomporre comunque la compagine del suo essere, per vincere il ribrezzo e l'orrore di quell'impressione, si guardò attorno quasi chiedendo sostegno e conforto ai noti aspetti delle cose. Gli parvero anche questi cangiati e come evanescenti. sentii con terrore che non gli era più possibile ristabilire una relazione e tutto ciò che lo circondava. Sì, poteva guardare, ma che vedeva? Poteva parlare, ma che dire? Poteva muoversi, ma dove andare? Parlò, tanto per udire il suono della sua voce, e gli parve anch'esso cangiato. Disse: «Che faccio?» Sapeva bene quel che gli restava da fare, ma nello schiacciar con la lingua contro il palato le due C di faccio, non avvertì altro che l'annodatura della lingua e l'amarezza aspra della bocca, e rimase col viso disgustato e arcigno. «No», soggiunse, «prima che altro?» Qualunque altra cosa gli apparve inutile, vana. Poteva soltanto, ancor per poco, per passarsi la voglia e darsi così fuor fuori uno sfogo, dire e fare sciocchezze. Pensare seriamente, agire seriamente, non avrebbe potuto, se non a costo di cedere al proposito oscuro e violento che stava a distruggergli dentro tutti gli elementi della vita. Balottarsi poteva quei frantumi di essa che dal tumulto interno balzavano a galla dalla sua coscienza squarciata. Baloccarsi un poco. Sì, in casa di Roberto Auriti. Doveva vederlo, dirgli che per lui, per coprirlo, si era messo da sé sotto accusa. Ecco che aveva ancora dove andare. Chiamò una vettura per non avvertire il tremore e la debolezza delle gambe e diede al vetturino l'indirizzo. Via delle Colonnette. Arrivato in Via delle Colonnette, salendo la scala semibuia, Selmi incontrò Olindo Passalacqua che scendeva gli scalini a 4 a 4. «Ah, è giusto lei, onorevole! Correvo in cerca di lei! Dica, che c'è, che c'è?» «Vento!» rispose Corrado Selmi placidamente, ma Olindo Passalacqua restò come un ceppo. «Vento? E che dice? È quella denunzia infame! Ma come? Ma chi è stato? Ma roba da sputargli in faccia! Andate a fare l'Italia per questa canaglia!» Corrado Selmi gli prese il mento fra due dita. «Bravo, Olindo! Nobili sensi in vero! Su, andiamo!» Trovarono Roberto abbattuto su una poltrona, con la faccia rivolta al soffitto, le braccia abbandonate e l'innaffiatoio accanto. Appena vide il Selmi, fece per balzare in piedi, affannandosi in una irrompente convulsione, andò a buttarglisi sul petto. «Ma per carità!» scongiurò Olindo Passalacqua, correndo a chiudere l'uscio e accennando con le mani a far piano. Corrado Selmi, gravato dal peso di Roberto, stette un po' a guardare i cenni del Passalacqua e scattò alla fine, scrollandosi in una risata pazzesca. «Ma stai qui!» disse, germendo l'innaffiatoio e avviandosi di furia al terrazzo. «Ma che facciamo sul serio?» «Annaffiavi! E seguitiamo ad annaffiare! Qua, è così, così! Pioggia! Olendo! Pioggia! Pioggia!» E una vera pioggia furiosa si rovesciò dalla mela dell'innaffiatoio addosso a Olindo Passalacqua, che prese a fuggire per il terrazzo, gridando e riparandosi con le mani la testa, inseguito dal Selmi, che seguitava a ridere, dicendo: «Io passo l'acqua, tu passi l'acqua, egli passa l'acqua, tutti passiamo l'acqua!» Non aveva finito l'ultima battuta che sulla soglia del terrazzo si presentò, con gli occhi ilari e lagrimosi, raggiante di commossa beatitudine, Mauro Mortara, con le medaglie sul petto e lo zainetto dietro le spalle. Appena lo vide, Corrado Selmi fece un gesto d'orrore e scappò via per l'altro finestrone che dava sul terrazzo, gridando: «Per Dio no! Ah no, questo poi è troppo!» E Roberto Auriti gli corse dietro per trattenerlo. «Corrado! Corrado!» Mauro Mortara, a quella fuga, restò come smarrito davanti allo stupore della signora Lalla, del Passalacqua e della studentessa di canto, alla meraviglia sorridente di Celsina e a quella ingrugnita di Antonio del Re. Vengo, se non c'è offesa, disse, a salutare Don Roberto. Parto domani. Ma che siete? Gli domandò la signora Lalla, come se avesse davanti un abitante della luna piovuto dal cielo. Sono... prese a rispondere Mauro Mortara, ma si interruppe riconoscendo Antonio del Re. Non siete il nipote di Donna Caterina, voi? E pronunziando questo nome si levò il cappello. Diteglielo voi, soggiunse, che sono io. Sono venuto due altre volte. Non mi hanno fatto salire, perché Don Roberto non era in casa. Il passalacqua, tutto bagnato, gli si accostò, gli sbirciò le medaglie sul petto e... Patriota siciliano? Domandò. Oh, ai patrioti siciliani, per Dio, statue d'oro, statue... E uno starnuto, tardo a scoppiare, lo tenne a un tratto a bocca aperta, le nari frementi, le mani tese come a pararlo. Finalmente scoppiò e... Statue d'oro! Ripeté il passalacqua. Mannaggia il Selmi che m'ha fatto raffreddare. Perché è scappato? Ma che è pazzo? Guardate come... Ma dove è andato? Roberto! Strillò a questo punto la signora Lalla, accorrendo dal terrazzo nella stanza attraverso la quale il Selmi era poc'anzi fuggito. Rientrarono tutti, spaventati, dietro a lei. Un estraneo, col cappello in mano e gli occhi bassi, stava rigido sulla soglia di quella camera, mentre Roberto, col viso terreo, chiazzato qua e là, si guardava attorno, convulso e indeciso. Al grido di lei, protese le mani, ma come per impedire il prorompere della sua, più che dell'altrui, commozione. «Vi prego!» «Vi prego», disse, «senza chiasso, nulla, una chiamata in questura». «Lo arrestano», fischiò allora tra i denti Antonio del Re, col volto scontraffatto e tutto vibrante. Nanna cacciò uno strillo e cadde in convulsione tra le braccia del marito. «Lo arrestano», domandò Mauro Mortara, facendosi innanzi. Mentre Roberto Auriti cercava nella camera gli abiti da indossare e con le mani accennava a tutti di non gridare e di non fare confusione. «E come?» seguitò Mauro, guardando Antonio del Re. Non ottenendo risposta da nessuno, andò incontro a quell'estraneo e, levando un braccio, lo apostrofò. «Voi siete venuto qua ad arrestare Don Roberto Aurede?» «Mauro!» lo interruppe questi. «Per carità, Mauro! Lascia! Ma come?» ripeté Mauro Mortar, rivolgendosi a Roberto. «Arrestano voi! E perché?» Roberto accorse a dare una mano al passalacqua, alla studentessa di canto e a Celsina, che non riuscivano a sorreggere la signora Lalla, la quale si dibatteva, si incrociava tra urli, singhiozzi, gemiti e risa convulse. «Di là! Per carità, di là, portatela di là!» scongiurò. Ma non fu possibile. Il passalacqua, invece di avvalersi dell'aiuto di Roberto, pensò bene di buttargli le braccia al collo, rompendo in singhiozzi ed esclamando: «Cireneo! Cireneo! Cireneo!» Roberto si divincolò, quasi con schifo, e si turò gli orecchi, mentre il passalacqua, rivolto a Mauro Mortara, seguitava: «Patriota, vedete? E così l'Italia ricompensa i suoi martiri! Così!» «Il figlio di Stefano Aurete», diceva tra sé Mauro Mortara, con gli occhi sbarrati, battendosi una mano sul petto. «Il figlio di Donna Caterina Laurentano! E dovevo veder questo a Roma!» «Ma che avete fatto?» corse a domandare a Roberto, afferrandolo per le braccia e scotendolo. «Ditemi che siete sempre lo stesso!» «Sì? E allora?» Si afferrò con una mano le medaglie sul petto, se le strappò, le scagliò a terra, vi andò sopra col piede e le calpestò. Poi, rivolgendosi al delegato, «Ditegli che è un vecchio campagnuolo, venuto a vedere Roma con le sue medaglie garibaldine, vedendo arrestare il figlio di un eroe, che gli morì tra le braccia nella battaglia di Milazzo, si strappò dal petto le medaglie e le calpestò. Così! Uscendo dalla casa di Roberto, Corrado Selmi si imbatté per le scale nel delegato e nelle guardie che salivano ad arrestare l'innocente. Si fermò un istante, indeciso, ma subito si sentì occupare il cervello da una densa oscurità, e in quella tenebra d'ira e d'angoscia udì una voce che dal fondo della coscienza lo ammoniva che egli non poteva in alcun modo sul momento impedire quell'atroce ingiustizia. Seguitò a scendere la scala, rimontò in vettura e provò quasi stupore alla domanda del vetturino ove dovesse condurlo. Ma a casa? E c'era bisogno di dirlo. E dove poteva più andare? Che più gli restava da fare? Via, San Nicolò, da Tolentino. E come se già vi fosse, si vide per la scala della sua casa. Ecco, entrava in camera, si recava all'angolo un muro di lacca verde, lo apriva, ne traeva una boccetta e istintivamente si era cacciata una mano nel taschino del panciotto, ov'era la chiave di quello stipetto. Cosa strana! Pensava ora allo specchio, a un piccolo specchio ovale appeso accanto a quello stipetto, al quale egli non avrebbe dovuto volgere lo sguardo per non vedersi. Ma pure, ecco, si vedeva, sì, in quello specchio, con la boccetta in mano, vedeva l'espressione dei suoi occhi ridente, quasi non credessero che egli avrebbe fatto quella cosa. No, prima doveva scrivere e suggellare una dichiarazione per Lauriti. Poche righe, esplicite. Non meritavano gli accusatori un suo ultimo sfogo, due righe soltanto, per salvar l'amico già in carcere. Passato il ponte di ferro, Selmi udì strillare da alcuni giornalai un'edizione straordinaria del foglio più diffuso di Roma. Pensò che fosse per lui e fece fermare la vettura. Comprò quel foglio. Difatti, in prima pagina era il resoconto della seduta parlamentare e nella sesta colonna spiccava in cima il suo nome, Corrado Selmi, come titolo dell'articolo del giorno. Prese a leggerlo. Ma presto ne ebbe un fastidio strano, avvertì che quello era già per lui un linguaggio vuoto e vano, che non aveva più alcun potere di muovere in lui alcun sentimento, quasi fatto di parole senza significato. Gli parve che lo scrittore di quell'articolo non avesse altra mira che quella di dimostrare che egli era vivo, ben vivo, e che, come tale, poteva e sapeva giocare con le parole, perché gli altri vivi, i lettori, potessero dire «Ma guarda com'è bravo! Ma guarda come scrive bene!» Quel foglio, così leggero, gli parve a un tratto, con quel suo nome stampato lì in cima, una lapide, la sua lapide, che egli stesso, per uno strano caso, si portasse in carrozza diretto alla fossa. Strana lapide, in cui, anziché le solite lodi menzognere, fossero incise accuse e ingiurie. Ma che importavano più a lui? Era morto. Voltò la pagina del giornale. Subito gli occhi gli andarono su una intestazione a grossi caratteri che prendeva cinque colonne di quella seconda pagina. L'eccidio d'Aragona in Sicilia, e sotto, a caratteri più piccoli, gli operai delle zolfare in rivolta, l'assalto alla vettura dell'ingegnere minerario Costa, scene selvagge, lo uccidono con la moglie del deputato Capolino e bruciano i cadaveri. Corrado Selmi restò, oppresso d'orrore e di ribrezzo, con gli occhi fissi su quelle notizie, comprese che per esse e non per lui era uscita quell'edizione straordinaria del giornale. La moglie del deputato Capolino. Oh. Egli l'aveva veduta a Girgenti quando vi si era recato per sostenere la candidatura di Roberta Auriti e assistere il Veronica nel duello col marito di lei. Bellissima donna. Uccisa. E come si trovava in vettura ad Aragona con quell'ingegnere? Partita da Roma con lui. Una fuga. Era l'ingegnere del Salvo. Gli operai delle zolfare si recavano in colonna dal paese alla stazione, risoluti a non farlo entrare se da Roma non portava l'assicurazione che le promesse sarebbero state mantenute. Oh, ma guarda, quel Preola, Marco Preola, quel miserabile che Roberto Auriti aveva scaraventato contro l'uscio a vetri della redazione del giornaluccio clericale. Capitanava lui adesso quella turba selvaggia di facinorosi. Li incitava all'assalto della vettura, al macello. Vile colpire una donna. Il Costa sparava. E allora? Il Selmi non poté leggere più oltre. Restò nel raccapriccio col giornale aperto tra le mani, come soffocato da quella strage. Gli parve di sentirsi investito dal feroce affanno di tutto un popolo inselvaggito. Appallottolò in un impeto di schifo il foglio e lo scagliò dalla vettura. Domani, o la sera di quello stesso giorno, in una nuova edizione straordinaria, esso avrebbe annunziato con quei grossi caratteri il suicidio di lui.